jingle jingle, hip hop e Pippo. Il pregio dell'esclusiva e lo spregio dell'esclusione. Vulcano umano in eruzione. Sementi con cime sulle menti. E musica infantile per persone intelligenti. Se non mi trovi dentro gregge, significa compreso la mia vita. Nelle mani tutto ciò comporta scelte. Come di non essere nessuno se qualcuno lo diventi. Rinnegando la tua vita, gli ideali e la tua gente. Sono giunto al limite, ma dimmi quale crimine giustifica la fame di interessi. Dammi una risposta con le palle senza tempo, invece di nasconderti in eterno i teoremi che non pensi. Se c'è una cosa che ho imparato bene è che il rispetto non si chiede, ma nei fatti lo si ottiene. In tutte quelle facce piene ci sono i sogni di una vita, degli illusi che vi guardano alla tele. Con la corda al collo nel passaggio per la gogna, chi reca spazzatura e chi gestisce questa fogna. È troppo comodo far finta di guardare altrove, fare la bella vita mentre cova tutto troia. Yeah, yo! Chi non mangia per la brama di un infame, dove si cucinano storielle che condite da menzogna, sono l'ennesima latrina per cibarsi di vergogna. Semini la merda, poi pretendi di raccogliere. Ricorda che suo esercito è stanco di soccombere, stanco di rincorrere, stanco di sognare in parallelo con la freccia che sti sogni vuole fottere. Mettono benzina sopra il fuoco, come se mirare ad un pareggio fosse il massimo del gioco. La quota del fallito suggerisce la puntata, perché vedi che fa comodo una gioventù bruciata. Alza quella testa perché è l'ora della sveglia, la pace una chimera che ritrovi sottoterra. Tu mettimi il collare per restare in questa merda, ma decidiamo noi quando finisce questa guerra. C'è nessuno che ti chiede come stai, come fai, far quadrare sto bilancio che non torna mai. Non c'è nessuno che ti chiede come stai, cosa fai, perché sanno che sto tempo non ritorna mai. Non c'è nessuno che ti chiede dove vai, per il fatto che sono numero e che tanto non conti mai. Non c'è nessuno che ti guarda dentro gli occhi, che ti dice di scappare perché...